bella però nel cuore a sospirar nel cuore torto. Non può sentir nel peco le smanie della peco nel cuore a sospirar. Ah, ah, ah, ah. Nel volo azzurro. Vedi, ti vuol venar, ti vuol venar, vedi, ti vuol venar, ti ho lungi con la mano. Thank you. Thank you.

andiamo al tempio, dove sull'are preparate il grande sacrificio si consumi e rendasi d'onor ai sommi dei, qui del nostro gioir devesi il merto. Andiamo, Meliso, da se lievi auspici, sperarmi giova, per favor venduni, il cielo ogni or sereno, la greggia lieta, il praticel più ameno. Thank you. ti tardi più. Vedi gli allegri cori di ninfe e di pastori accanti per accrescer la pompa a tuoi trionfi. Andromeda, tra noi non v'è chi più di me gova, immirarti fatta sposa di Perseo e fuor d'affanni. Che i gravi miei danni quanta pietà ti avesti in il ricordo creder non ti posso bugiardo adora porti mia fortuna abbiamo perso al tempio e vi si chiudo in presenza dei lumi il vuoto il giorno dolce. Quindi nasca l'augurio fortunato d'un amore tra noi sempre beato. più bello ti godimento, ne rio tormento, ne rio tormento di colla dal modello. Thank you.

riconosco in voi più bello che lo divento, né via tormento, né via tormento vi colla dal vedere. 听众朋友，以上大家所欣赏到的是维瓦尔第歌剧《安德鲁姆达·里贝尔卡》全剧的录音，由克里马斯、肯奇、贝尔罗夫、鲁奇卡尔演唱，维也纳巴洛克乐团演出，马尔康指挥。下面请您继续收听北京音乐广播古典音乐有限频道的精彩节目。